10 pre. Hola. Lo fa sempre qua. Lo fa sempre. Vabbè. Pazienza, non voglio distraggermi, quale sto al posto qua. Ma hai individuato se è dal microfono da dove? No, cioè, non credo sia il microfono. Tanto finì una barubica che ogni tanto ce n'è uno, ha detto, per rompere le scatole. Non ci io mi farà che mi vici, no, nemmeno fottere come un tappo antenna, parlo con questo, tanto sono un bacchino vecchi, non è che puoi fare diversamente, magari c'è qualche polvere, qualche innesco, non è che aperta lui. Adesso farò la prova di usarlo a 12, quasi sia trasformatore, perché a 2.20. Va bene così, una fattiva di sono stato un po' la sera mattando del D, come con l'opposto qua. Facendo opposto, siamo già arrivati ai piani superiori. Sì, magari anche quello. Ma tu hai provato il microfono da qualche altra parte? No, non ho provato. Non c'è il microfono. Non va bene con il microfono, non so. Aspetta a vedere che lo provo. Provo il microfono su. Da capire in che testa. Fai quella prova, non ti rendi conto se il microfono si era parato. Lo sto facendo. Fai, metti la porta anche muta. Io invece lo vento. No, negativo, non lo fanno qua. Deve essere tutto l'apparato. Invece è proprio l'apparato. Potrebbe essere anche il connettore femmina dove si inserisce il microfono, potrebbe essere anche quello, controllalo. E infatti, devo aprirlo già, non ce l'ho, non la giocando. Non lo tiro le palle. Domani mi metto l'apro. Adesso è importante il microfono abbia niente, se no mi spasava un po' le linee, perché col microfono lo uso anche col 48, lo uso col Consola e col Zodiac e col DAC, lo uso con tutte le radio, capito? Ok, mi ha chiamato Roberto. Pronto? Le valvole non c'hanno assolutamente niente, hanno una modica di 600 watt con 4 watt e quasi 800 con 15 watt. Una bomba, in banda laterale supera i 1300-1400. Un mostro, non ne ho mai visto cose del genere, allucinante, veramente. Non ne ho mai visto. C'era roba a sostituire che io non ho visto sotto la piastra, condensatori, perché quando è scoppiato quello che ho trovato io con quella resistenza c'erano altre due sotto, tre diodi, altre due resistenze, io purtroppo non mi sono pentato, quello che ho visto scoppiato ho cambiato. E poi niente, mi ha messo il relè nuovo, perché mi ha detto che le lamelline erano un po' bruciacchiate. A tasso zero, mi ha detto, ma stai scherzando, non ci ho messo niente, roba che c'avevo io, te lo mando appena mando la roba a Gigi. Mi ha detto, veramente è bello, gli ha tarato tutti gli strumenti, gli ha tarato tutte le neonovicche delle valvole, c'è addirittura l'amperometro in quell'amplificatore, c'è un amplificatore che c'è l'amperometro che ti segna l'assorbimento degli amperi delle valvole. Allucinante, ma è bellissimo, veramente è fatto un grande affatto. E allora perché non mi ha preso niente, adesso le mando l'Uranus e lo faccio modificare. Faccio fare la modifica all'Uranus, ma ha detto guarda, la modifica all'Uranus è una stronzata, spendi poco perché è già pronto, c'è il doppio modulatore, infatti quando l'ho aperto c'è un trasformatorino piccolino e una scheda che non è allacciata, ma ha detto è già se no non vuole soldi. Io. Vabbè, visto. Ha risolto con niente. Solo che uno si sente sempre in debito quando fanno queste cose, sempre qualche cosa poi devi contraccambiare, o in lavoro o in cosa, qualcosa la devi sempre contraccambiare. Vabbè, comunque è interessante che abbia risolto il problema. No, non ho risolto, la grande, tra l'altro mi ha detto che non era niente di grave perché era nuovo, sì, l'hanno saltata questa roba perché non hanno saputo usare. Dice, stai attento al driver, ti metto un puntino, poi te lo cancelli in modo che abbia un riferimento per l'accordo del driver, che è molto importante perché il driver accorda l'accoppiamento alle valvole, quindi lì non c'è da scherzare, se non lo sai usare così a 5 valvole bisogna stare attenti, mi ha detto. E niente, nuovo. Mi ha detto che è favoloso, veramente non l'avevo mai visto. E in più mi sta mettendo l'ingresso, praticamente sta modificando l'ingresso, anziché da 0 a 10 watt, me lo sta mettendo da 0 a 20 watt, come dicevo io a te. Ho detto, ma il picco, no, dice, il picco di modulazione non fa assolutamente niente agli amplificatori, l'importante è che non le dai di continuo 20 watt, ma se tu lo metti a 4 watt, 5 watt, 6 watt, che è quello che lui ha di ingresso, e poi il picco va a 20, a 30, non succede assolutamente niente. Però quando glielo dai fisso così, mi ricordo che tu che ti ho l'altro giorno, quando glielo dai fisso, dice, c'è sempre il rischio che inizia a saturare e poi i crepi finali. E allora ecco la risposta, anche quello della macchina che si comporta così anche con 30 watt, con 30 watt di ingresso, nel senso che gli dà a picchi bassi, poi come modulo arriva a 30 di picco. Infatti è quello che ho detto io a te, il picco di modulazione non fa assolutamente niente perché non è continuo, è proprio a picchi, quindi le dà il tempo di salire e scendere, ma quando gli dai continui è sempre un problema, mi ha detto Roberto. È molto, molto in gamba, molto, va bene. No, sono contento, almeno insomma è finito questo calvario, perché non sapevo che spesa c'era, valvole contro valvole, ma stai scherzando. Le valvole, guarda, misurate da me una per una, lui c'è lo strumento anche per misurare le valvole, mi ha detto se avranno, siano 30-40 ore di modulazione, è troppo. Io ho detto, sono nuovo, infatti quando le ho pulite erano lucide, ho visto che non erano neanche scaldate, di solito si vede quando una valvola è scaldata, eccetera. Lì hanno sbagliato l'accordo ed è chiaro che è partito sono partiti questi piccoli componenti, dai, 10 euro di componenti, non ti preoccupare, quando mi mandi l'altro lavoro, adesso le mando un lineare, lo stesso piccolo tipo PV131 per due valvole, che anche lì c'è qualche stronzata perché non mi quadra i collegamenti che sono stati fatti dall'accoppiamento delle valvole, ci hanno messo le mani dentro. E purtroppo quando non sei capace è un casino e quindi niente, non sale, però lei attacca tutto, però non sale. E le mando anche quello, che è un bellissimo lineare lo stesso. E il Galaxy le mando, mi faccio mettere a posto queste cose. Galaxy cosa c'ha fatto? Niente, cosa c'ha? Faccio modificare. E fai mettere la camera, ecco, c'è già tutto dentro, non ho mai capito la teoria che volevo fare. C'è già il doppio modulatore, quel Galaxy e la scheda che non è collegata già dentro, tutto predisposto. Me lo fa e mi collega tutto praticamente, capito? Ah, Faccio capire. Roberto secondo me potrebbe anche fermarsi a fare l'autista e continuare a fare quel lavoro. Se c'è sempre il giro dei baracchini guadagna a profusione. Guadagna, ma è bravo poi. che l'ho sentito parlare, quel poco che me ne intendo corrispondeva a quello che dicevo io, capito? Perché io quando l'ho aperto l'amplificato, l'abbiamo visto anche con Vannino, ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava, ma tutto era perché la tensione valve arrivava però non usciva. Quindi è chiaro che c'erano quei diodi, quegli altri due condensatori, altre due resistenze, insieme ha cambiato 5-6 sotto la piastra che io non ho visto e soprattutto ha cambiato quelli del relè. Due ce n'erano sopra il relè e quegli altri tutti sparsi, insomma. Ma era proprio completamente sistemato. Ce l'aveva acceso un 4 watt, 400 watt, netti netti, proprio di portante, di picco salivano già a 5-600. Con 10 watt mi ha detto, l'ho provato io con la mia radio e a wattimetro esterno, che poi è perfetto anche il wattimetro suo, c'è proprio neanche 2-3 watt di differenza, con Daiva l'ha provato lui. Ha detto con 10 watt sono 7, 800, 850 e un picchi anche 900. Grazie di arrivare. Bravona. Allora c'è da divertirsi. Quello fa la bubua. Quello fa la bubua. Ma io lo sapevo io, quando vedo l'estetica, la stanza di un amplificatore, capisco subito che fa la bubua, anche per come è fatto. E quando c'è l'accordo del driver, questo ad esempio HF che c'ho io di vecchia generazione non ne ha accordo di drive, capito? C'ha l'accordo diretto, placca e antenna, basta. Quindi quando una volta c'hanno quelli lì devi stare molto attento, ci devi lavorare bene. Infatti mi ha detto guarda, stai attento col drive perché devi accoppiare bene le valve, una volta che sono accoppiate bene vai in trasmissione di brutto perché non fa una grizza, non perde un watt, non intermodula, niente. Si accorgeranno solo dell'avventola, mi ha detto, te la metto un po' più silenziosa, però si accorgeranno solo dell'avventola, mi ha detto, perché è una bestia. Beh, questi a Lorenzo Arrigino ce la fa. Sì. Già ce la fa, ma lui stava pensando, siccome non ha relè, quando schiacci la portante non aumenta la velocità, io pensavo che aumentasse, invece no, questo è un altro tipo di sistema. Quindi mi ha detto, non aumentando la velocità, adesso vedo un po' se riesco a diminuire la 220 all'accensione, va bene, altrimenti te la cambio e te la metto a 12 volt, capito? Prende i 220 dal trasformatore stesso, dalla linea trasformatore della 220, però le mette un riduttore da 220 a 12 e quindi il discorso è finito, va di lusso. Vabbè, è una cosa risolta. Adesso c'è questo cacchio di radio che... ma questa radio nuova ti è arrivata, è quella che vi dà prima? No, questa è quella che mi ha mandato quello di Cali e Simba. Nuovissima. Ma anche il Zodiac che faceva così, invece poi non l'ha fatto più, capito? A forza di tenere acceso anche il DAC, anche quel console di Mario, l'altro Sommerca, quelli a 220 l'hanno sempre fatto inizialmente, poi non lo facevano più perché si è stabilizzato. Adesso infatti l'ho lasciato acceso a 220, vediamo di stabilizzarlo, mettere in movimento un pochino, anche questo era sempre fermo, era più di 5-6 anni fermo. Vediamo di mettere in funzione bene la cosa, se no c'è anche l'ingresso a 12 volts. Se fosse lo stabilizzatore metto l'ingresso a 12 volts, non dovrebbe farlo più, ma vediamo, dai. Piano piano già le sistemiamo e così la sinafutti. Tanto sono barchi di vece, già non è che poi faremo grandi affidamenti. Allora, esiste uno spray che praticamente non fa sentire il rumore se dipende dal trasformatore, perché a volte il trasformatore, essendo vecchio, si incollano le alette. E praticamente esiste questo spray che riesce a farlo diventare di nuovo silenzioso. Ah, addirittura. Allora me lo puoi usare, me lo compro, vediamo, dove, non c'è problema. Mi è nessuno ti sente la voce B2, tu sì. Qua io l'attalino l'avevo usato una volta, adesso non mi ricordo se è spray o se è normale così, però mi ricordo che me l'aveva detto che gli faceva rumore questo trasformatore, ho usato questo prodotto ed è riuscito a risolvere il problema. Fabri! Ehi, ma già ci sei, ti sei fatto attendermi col baracchinetto. E c'ho l'altro, quello grande, quando attacco il microfono fa un rumoraccio, che qui sono fatti i tacchi finali. Adesso sto smontando per un attimino, se sono quattro o se un attimino. Oh, anche finora sono partiti. Ehi, già, non è finita. Allora, tu la radio che non accendeva e l'ho attaccata all'alimentatore switch, che quello non, fortunatamente non quello ultimo che ho comprato, l'altro che avevo, sentito uno scoppio invece che ha incolto la radio e ha scaricato sulla tensione a 12. Uno scoppio che è stato boom, è partito il condensatore e si è fatto a pezzi dentro l'alimentatore, l'ha visto Fabrizio. Allucinante. E che apparecchio? Un apparecchio di quelli vecchi che mi hanno dato, tipo HF. L'ho attaccato, dice non accende, guarda ma cos'è, cosa non è, vabbè, dai dammi, te lo controllo, se non accende agito dell'udorlo, non l'ho manco aperto, l'ho attaccato, cazzo mi ha fatto saltare in aria l'alimentatore, ci deve essere un corto in quella radio, allucinato, l'ho presa, l'ho messo da parte. Domani deve fare un padrone, quindi si abbiglia, perché io non posso farci niente, non è scoppiata la radio, è proprio in corto, non... cazzo mi ha crepato l'alimentatore. Infatti è venuto Fabrizio a portarmi la radio di Sandro e gli ho dato a controllarlo, l'ha scoppiato anche il finale, mi ha bruciato, cazzo. Oh Claudio, e l'acqua sta arrivando adesso. Allora preparati una cena, capito? Allora telefono a Roberto, molta pressione c'è. Devo vedere su, perché adesso ho aperto qua in garage e ho visto che è aumentato la pressione. Te l'ho detto, date il tempo almeno una mezz'oretta, un'oretta che arrivi in condotta, perché se ha portato la pompa a 5 kg, quella deve lavorare a 4 kg, un chilo in più, c'è un po' di pressione, capito? Tenendo conto che comunque la perdita c'è, quindi domani mattina ha detto che segnala e vediamo un pochino di risolverlo. Però, insomma, quello che gli ho chiesto già ha fatto, va. Controlla su se c'è acqua oggi. Adesso mi pare che controllo su, però qua è arrivata già pressione e sicuramente c'è su, altrimenti ti dico su com'è. Se c'è giù già c'è anche su, controlla, va. Qua c'è stato un break. Buonasera Claudio, sono io che ho breccato. Oh, ciao Giuseppe, buonasera. Mi è sembrato mentre ho mollato Gigi che c'era qualche break. E allora Giuseppe, tutto bene? Tutto bene, Clara, tutto bene. Ma c'è anche il falchetto per caso? Falchetto? No. Non l'ho sentito per niente oggi. Perché mi è sembrata la voce sua quella di poco fa, dice c'è stato un break. Tutto a posto, dai, dai, dai. E beh, hai cavato piedi per quella cosa, Clara, per quello scoppio. Ehi, cavato piedi, mi sono fatto via Fabrizio, saltato in aria. Il condensatore proprio, lo scoppio che ho sentito già non era piccolo, l'ha fatto a pezzi, mille pezzi l'ha fatto. Sicuramente la radio era proprio totalmente in corto, capito? E magari anche odore ha fatto così. Da che odore ha fatto? Se dice il cucchio, balliamo la bomba, che è subito staccato la corrente, l'ha passato in salvavita, ma non ha fatto danno ulteriore a Bidellucci. È passato Fabrizio stasera e si è portato via, si sta divertendo, ma mi ha già detto che ha bruciato anche i finali a CP, che non ci voleva, non mi serve un altro alimentatore, se no ci ho troppo carico, li avevo tutti divisi, adesso praticamente ne ho tre su tutte le radio che hai visto, prima ne avevo quattro, quindi un po' li avevo divisi. Oh Claudio, sì, gli è arrivata anche su da, no, l'acqua è a pressione. Un'altra cosa ti volevo chiedere, ma quello scavatore, quel 130 che c'è lì a, per andare a Uzi, lo su alla cosa della, chi lo adopera quello lì? E quello lì è l'impresa che ha ripreso l'appalto per fare la strada che va a Nulvi. No, nel depuratore del coso lì c'è uno scavatore con 130. Ah, è quello di Marangoni, quello di Marangoni, ho capito. Marangoni, il suocero, cos'è il suocero, il genero di Gaetano? E di Gaetano, dai, che è poi lavora Gaetano, ci ho compreso. Io vieno, cos'è, un giorno, non un gioco. Marangoni, sta facendo il depuratore nuovo di Osero, e quindi c'è lo scavatore con 130, perché portano via tutto il garage, tutta la roba. Positivo, dai, positivo, no, perché me l'hanno chiesto a vedere chi era. Ehi, Marangoni. Lui, mi raccomando, riempiti la vasca e lavati oggi, lavati bene, bene, con la spazzola, tutto, anche per domani, perché domani non so se posso fare niente. E domani, adesso già mi sono già lavato, sperando che continui questa cosa, però che domani controlli se c'è spirita, però sicuramente c'era qualche spirita. Ma è arrivata a forza, come mai di tutta una... Quando sono sceso su non ce n'era, mi ha detto, ho aperto il rubinetto, sono entrato e ho visto l'acqua. Perché ho aumentato i chili della pompa praticamente in uscita. Stavo lavorando a 4 chili, l'ho portata a 5 chili per aumentare la pressione. Quelle sono pompe verticali che devono lavorare a 4 e mezzo, capito? Perché hanno delle giganti enormi, però molto probabilmente, come mi hai detto tu e come ha controllato lui, che mancano 5 litri al secondo dai conteggi delle 24 ore, c'è qualche perdita, capito? Quindi domani si verificherà. L'importante è adesso tu c'è l'acqua, adesso lo chiama Roberto, dico che è tutto a posto, che lo ringrazio. Senza acqua, non lo so io, ma come minerale ne ha? Nel minerale, nel ferrarelle ne aveva, era disperato, eravamo su 45, ho chiamato un paio di colleghi e subito sono intervenuti lì a Monteoro e c'è una perdita, sicuramente si è verificata nell'arco della mattinata, condotte con la broga, e allora ho aumentato un po' per far sì che ci sia più discesa. Almeno gli amici servono a qualcosa, se non altro ti hanno dato anche un colpo di mano per risolverlo quel problema. L'acqua è una cosa troppo preziosa, quando manca purtroppo c'è il problema. Se si può intervenire, si interviene, ma poi quella linea lì, quelle poppe, quella le conosco bene, perché con la turetta non si è fatto la cultura lì, mamma mia. Sono quattro poppe verticali, altre 4 metri che fanno paura, quelle erogano l'acqua, mi pare che sia 150 litri per Ponte Rosello, sotto, no? Dove c'è Ponte Rosello, poi tutta la derivazione Laterolce, via Valdetta, Bassata, via Grazia Deledda, da lì, poi arrivano 95 litri per ottava, e il resto sono tutti qua per via Milano, per i Vasconi via Milano, quindi già le conosco le portate, non ci sono problemi, va bene, ma è importante Gigi Argerei, va, fusi non li vidi, vai, li vidi in bocco, ma almeno per lavarsi i piedi stasera, già ce l'ha l'acqua. Riprendi Gianni, aspetta che ho messo il locco. Ma aumenta la potenza dell'acqua, non aumenta anche la perdita. Non si può fare, ma l'ha fatto giusto perché è domenica, per avere un po' più di sollievo, ma non si può fare, capite? È chiaro che aumenta sì, con la speranza che non si apra più il forno, comunque la scavalca perché riesce ad arrivare più in fretta, capito? più sentito anche a te, dai. E allora, che fine hai fatto? Non ti ho più sentito ultimamente. Non ti ho sentito, perché stavo facendo la canna veste, stavo facendo di lavori, già, capito? Fino all'ultimo del paradiso qua, e quindi, sai, non accetto, non ti avevo già caldo, non ti no. Quindi adesso ho potuto sono assolto, quindi adesso è stato il di divertente, diciamo, e l'11 di giorno scorso è stato tutto bloccato qui, quindi sono tutto a favore dei mani. Ma ti ha fatto l'impianto solo per lì o stai facendo lavori per la casa pure? Ah, poi sono stati un'impiantatura qua, insomma, tutto il canale che l'ha fatto da là, allora il suo lavoro, insomma, adesso lo sta per bene, dai, ecco. Non è che è stata buona, ne ho uscita, va bene. Ma adesso sta andando bene, è vero. C'era una cosa che non andava bene, era... Era una stazione a 4, quello lì mi portava a stazionare, ma potevo andare con due bambini. Cazzo, ma se vengo a Portottone, se lo prendo lo faccio volare alla Sinale, ancora con quel cazzo di commutatore della Zeta GC, ma non ti lo abbia un comodo. Audio. Guarda, aspetta. Un commutatore che non sia della detta Gigi, costano mi pare 35 euro, 45 euro su internet, tu sei sempre su internet, ti prendi un commutatore buono della Revex, della Daiwa, ci sono quelle sottomarche, ma non prendere quelle a detta Gigi, mi creano un sacco di problemi. Io un giorno stavo uscendo fuori testa, perché la verità, non sono abituato a raccontare balle, la verità, l'avevo comprato perché ne avevo necessità, in fretta, così non mi serviva a commutare quando ho fatto il lavoro qua, mi serviva a commutare per vedere, Giuseppe, passo subito al microfono, per vedere se tutto era a posto. Cazzo, sono andato, la fusa non ne avevo, ma tu mandiamo, vai, intanto non attacco potenza, già va bene. L'attacco, una di, due di, tre di, tutto a posto e fa. Sta funzionando tutto, lascia stare attaccato. Una sera, dietro a casa, accendo la radio, cattolo che la QRM, dice il lupetto, dice Maria Gara. Bellissimo, non c'è un filo di QRM oggi. Inizio a sentire la gente parlare, Santiago lui, ha detto, oh, qui c'è qualcosa che non funziona. Stavo girando la testa, commutavo. E c'erano tutti i segnali bassi, chi più, chi meno. Cazzo, alla fine mi ha staccato l'antenna dal commutatore, ma subito è svitando direttamente la ghiera, boom, tutti i segnali a manetta. Ah, hai detto tu sì. Guarda, mi sembra che sia ancora nel giardino. Ha già visto il balcone, è giù cutto dal balcone, vai, rompimi le palle. Dimmi Giuseppe. Ma no, sacra, ma è già stato un rapporto a torre. Stiamo parlando? Ma purtroppo sono a 2, sento che la dico, se la dico di attuare. La dico di attuare, la dico di attuare, la dico di attuare, la dico di attuare, la dico di attuare, la dico di attuare, la dico di attuare, la dico di attuare, la dico di attuare, la dico di anche con le due vecchie che si trattano non fa molto non lo vogliamo però lo vogliamo seguire poi il resto di un signatore di un signore non è sempre più di peggio non è la cosa che va bene dunque se c'è mai lo è va bene. Ecco il segnale Santiago 9 Radio 5 ti ricordo che sto andando col baracchino sto andando col baracchino, capito? E quindi è Santiago 9 Radio 5. Sì, Giuseppe, Gabriele Silvestro è un rapportatore, se lo ascolti? Io sono qui alla bretellina adesso, lo tiro fuori passo passo, comunque credo che abbia qualche problema. Ecco, mi sentite? Sì, un attimino, non lo so, qua sta arrivando bene, sì, ti sentiamo Luca. Avanti Becker. Positivo, Massimiliano sono. Dammi un controllo, lo capisco. cambiato la capsula a questo microfono, come sta andando? Benissimo, alla grande. W4 mi ha dato tu, c'avevo una capsula di merda e ho trovato una bella ceramica, com'è? Va bene, è aperto, è fuori la capsula ancora, la devo chiudere. No, chiudi, la bella compatta, bella forte. Avanti Luca. Ciao Massimiliano, ho visto il messaggio, appena mi chiama io mi dà Luca, non c'è problema, glielo dico, capito? È positivo, positivo, va bene. Appena lo passo, domani lo richiamo, come se mai se ne sarà dimenticato. Poi appena è lì, me lo saliamo e vediamo un po' quello che si può fare. Brava, brava. Tutto quanto vuoi spendere più o meno spara, dimmi. 250. 50. 250. 250 può spendere Massimiliano, non di più, se no non va bene. Ma per che cosa? Come per che cosa? Niente. Parlatene al telefono, non qua in radio. Dunque, quella cifra, o lui, capito? Quanto? Franco Claudio. 250. Eia. Ma cosa stai cercando? Insomma, non vedete, Luca, 250 ti ho detto. Se lo dico, vediamo cosa esce. Cosa c'è tu da vendere, Fabri? Non lo so, c'è che probabilmente, non lo so se mi entra o se lo prendo un po' di apparecchi. Dimmi cosa sta cercando prima, per capirci. 8001 sto cercando, modello S. 2001? 8001 della Midra. Però il modello non XT, ma il modello S. Ma un vecchio vittore stai cercando? Un baracchino, un 8001. Ho capito. Un baracchino. Ecco, ma non vuoi baciare il cieco, mi c'è che dice. Cavalza il console, sta baciando, a zero. Bravo, vai, continuo così a zero. Anche perché c'è una voce tutta accanto, scende la bretella. Aspetta che abbasso un po', guarda se va meglio. Ma lo puoi lasciare anche così com'era, basta che non ti riesci, perché ripete troppo, ti sento un bel metallico. Avanti José. No, io sono qui adesso, all'altezza di Ripunti, con la speranza che riesca a arrivarci da qui. Salutiamo Lucchetto e saluti a Massimiliano, se mi copia. Buona scusa che non ti ho salutato, salutando tutti quanti, buonasera e ben ascoltato. A te metto le cuffie, prima metto le cuffie, dammi un controllo del radio, ho cambiato la capsula a questo MBP4, come mi ascolti? Che stai dicendo Massimiliano? Positivo. Come radio va bene, come radio sei bello chiaro. Carriera. Hai capito Fabri? Un 8001 della Midland, modello S. Chiamato? Sì, ce l'avevo già in funzione stamattina. ha chiamato prima Gigi e poi chiamato a me. Ha detto che è una cosa pazzesca, una cosa allucinante, mi sta mettendo, poi io pensavo fossero così le lampadine perché sono basse, però dice non ti preoccupare, te le cambio lo stesso perché non mi piace neanche a me, però dice quando schiacci la portante si illuminano di più, ti dice che stai trasmettendo e praticamente ti illumina molto molto bene gli strumenti, capite? Attenzione Claudio, buonasera. Buonasera, Porto Torres avanti. Ok, Claudio. Dimmi. Mi ascolti? Sì, sono col barracchino, ti ascolto, vieni avanti. Allora, col barracchino non arrivi a 9, aspetta che passo con l'altra radio e così ti dico come si è messo. No, non c'è bisogno di passare con l'altra radio, devo sostituire il capo. Piaceva l'altro giorno, mi tra la 48 normale. E con cosa la stai usando? segreto. Bene, va. Secondo me devi anche abbassarlo. Ma ci vediamo. Io ho trovato l'originale, quindi è chiaro che sai benissimo, meglio di me, che facendoli delle modifiche, più 4 vanno molto bene, più 4 e più 5, però bisogna fare dei ritocchi. Un pelino dovreste abbassare, ma anche a 6 lo puoi mettere. Guarda, così l'ho messo a 7, là. Sì, ci ho fatto anche quel punticello, vedi un po'. 1, 2, 3, questo però è normale, normale, 48, con 4 watt. Per l'amorazione. Ehi, capa. Ehi, massimi chiacchi, come questo, allora, dai. Questo sta andando a 4 watt, sta prendendo fuori. Ma solo che ho abbinato un mic da base, diciamo, dai, in sta delta. E' uguale, dai, io ci ho messo l'MB più 4, capito? Siccome questo qua l'altro giorno ce l'avevo in macchina e Claudio mi ha detto che c'avevo la modulazione bruttissima, tutto impastato, mi hai capito? Se usi il suo mic normale, Massimiliano, è da schifo, Devi trovarci un po' un mic, diciamo, che si possa dicere. Vabbè, a parte, diciamo, che come apparato raccoglie tutto, certo, è allucinante come apparato, vabbè, giusto perché è omologato, boh. Avanti, abbiamo lasciato, siete tornato al parcheggio, avanti. Agente, no, Giuseppe, non lo so se c'è ancora, forse sì. Agente, c'è uno, vuol dire che lo gaglia ai ventenni. C'è la riga, ha vinto. Buonasera. Abbiamo fatto le partite, dimmi che non ho seguito niente stasera. Il Milan 4-1, lì la Luisa e Juventus 4-1 mi sembra. Il Cagliari 0-0 ha fatto però Norucci la partita di sabato. O gli altri non me lo ricordo. Ma la Juve ha vinto sì o no? Ha vinto 4-0. Mina lo stesso. Caffa! Va bene, sempre 3 punti, non te ne punti lunga, non ce ne frega niente, l'importante è che la Juve vinca sempre. Giuseppe dove sei? Da Giuseppe. Giuseppe Tornaros. Oppure c'è propagazione. C'è Bombolito. Dove scappa? Attenzione, Bombolino, Bomboletto, se vai copiando Giuseppe qui agli Lioni, cappa. Sto facendo più strano del mattone, sto facendo più strano. Attacca, parola. Gigi Vulcano mi sembra, Gigi. Oh, è così qua, cambia qualcosa. Prova. Ora, 1, 2, 3, 4, vedo un po'. Ma è un pochino diverso, però già è buona lo stesso la modulazione. Cosa vuol dire diversa? Cioè brutta, com'è? No, va bene. Cos'hai fatto? Non lo so. Se non mi dici cosa fai, io come faccio a bilanciarmi? Ho sentito una differenza, ma non so di che cosa, mi sembra di timbrica. Guarda, te la faccio ascoltare la differenza, guarda, questa è la differenza e questa è l'altra differenza, capito? Questa è la famiglia. Mamma mia, sono tutta la sera qua dentro, cazzo, qua. Proprio con Biglioro Maracchino e attaccava lui in vinti, cazzo, per pazzia. Ecco, non lo fare. Avanti, Luca, ci sei? Tu riprendi tu già. Ecco, dimmi. Dimmi, parla. Cosa dire? Ma chiedo a dare a farmi un preventivo per questa parecchia, mettere l'ecco a come si chiama? Mi devo dare una risposta, non mi ricordo chi sarà. Massimiliano mi pare, tu eri Massimiliano, dovevi chiedere. Ma stavo parlando anche con Gigi, ho detto, ci vuole. No, non volete che sia meno. Una vera. Andare a Roma è un po' macile. Ehi, però, Luca, con che le occhiali tu, hai capito? Tanto Claudio c'ha il numero, te lo fai inviare, le fai lo squillo, ti d'accordo tu, poi lui per darglielo non c'è problema, tu lo dai a me, io lo do a Giorgio e ce lo porta giù. E vi mettete d'accordo voi. Capito? Io magari sto dicendo 200, però magari potete il biglietto 150, hai capito? Ti ammasso, ti fai mandare il numero da Claudio, le fai abbassa e vedi un po'. Se poi lo vuoi fare non c'è problema, uno di questi giorni ci vediamo e poi mercoledì lo do a Giorgio e poi lui venerdì lo porta giù. Hai copiato Luca? No. Io non sto già a riprendere tutti. Ma uno va a fare vedere, la ragione sta vedendo il computer, no? Non lo so io. Gianni? Gianni ci deve essere staccato anche lui. Non c'è riprendi. Dove sei arrivato? Ho sperato che mi ascolti. Poi adesso non mi arriva più. Dove io ti dico non lo sento perché c'ho il QRM eccomi qua, Luigi! Aspetta, dai, se no non mi sente per Paolo, dai. Ciao Antonio, ciao per Paolo, sperando che mi abbia tirato fuori adesso, Adesso sì, adesso va bene. Ma devo aiutare, se non aiuto no, c'è troppo QRM, capito? Poi stasera non c'ho più i sigli e anche il QRM, quindi non riuscivo. Gli ho tirato un pezzo fuori e poi è scomparso per quando. A casa c'è tutte queste modulazioni una sopra l'altra e ti coprivano pure un po' a te, dai. È un po' incasinata, dai, la frequenza. Oggi ce l'hai, dai, oggi ce l'hai, vabbè. Purtroppo anche la radio attacca, vuol parlare. Come va questa radio, Luigi? Va bene, dai, un po' basso ti sento, dico la verità. Tu non guardare a me adesso e lascia perdere la mia in questo momento che è un'altra radio e... non ti basare sulla modulazione mia, sul mio segnale, per fa. Perché prima ero con una radio normale, che non mi tiravi fuori. Capa, quindi sono basso di radio o di segnale? Di radio mi arrivi un po' basso perché ci sono questi che arrivano un po' forti, capito? Ma questo qua è quel timo, l'ho messo in moto oggi. Positivo, positivo. Tu hai visto che poco fa sono uscito con un baracchino 5 watt e non mi ascoltavi. Ed avevo 5 watt, capito? Ed era difficile mettere la macellina ad ascoltarmi. Vabbè, quella è colpa mia anche dell'antenna che ho io, Non penso, no. Non penso che sia... C'è anche la... Non sia produttore, se lui ha detto. Oh no, io sono qua a casa. Tanto un'altra cosa è passato sopra. Non ho capito, dove sei? A casa sono, Luigi. Poi vedo un attimo se la metà sopra, sento la trombetta io quando... Tu lo capisci, lo senti. Verpa. Dimmi. No, no, a volte mi sparisce. Ecco, non ho capito dove sei. Casa. Casa, ho capito a Porto Torres io. No, non sono io a Porto Torres, a Porto Torres ci dovrebbe essere Giuseppe, che lo sento io. Io sono a casa. Positivo, io poco fa avevo capito che era Porto Torres e tu, ma credevo, avevo capito che era Porto Torres. No, io sono stato a Porto Torres, non mi sentivi tu, che lo sai che l'abbiamo fatto altre volte, le prove. Positivo, positivo. Era qua a casa che ci sono problemi. Lo so. Ma sempre problemi dell'antenna, tu dici? La mia antenna è un po' nascosta, Caparroggio, dai, Caparroggio. Molto più aperto. Tu sei più aperto. Sono molto più aperto io, ci siamo di fronte, zio. Positivo. E Giuseppe è scomparso, prova a una chiamata Giuseppe, a tu. Cappa, attenzione, Giuseppe è tornato, cupi di bondolo, cambio. Mi sa che Giuseppe, Scomparso, è sceso dalla macchina, dai. Positivo, comunque ce l'ha montato in macchina allora Giuseppe, ce l'ha anche in vettura. Sì, ce l'ha in macchina, c'ha un barchetto piccolo, ma c'ha. C'ha una paillette, c'ha, Rex Pro, c'ha. Quello come ce l'hai tu, Anto, di quello che c'era da Fusaro, di cui lì stai parlando? Papà, ce l'avevo io, adesso io mi ho preso lo Zeus, mi ho preso. Ecco, ma l'hai venduto a Giuseppe, quello tuo l'hai venduto? No, non ne ho venduto. A Caparroggio. Ma quello che c'ha Giuseppe adesso, il suo di Giuseppe? Capa. Non ho capito, tu l'hai preso l'altro e non ce l'avevi più, pensavo che te l'avevi venduto il tuo. Guarda, ce l'ho, vuoi sentire? Ma è che se non ha importanza. Ce l'ha, io già l'ho ascoltato. Ma se vuoi, te lo faccio sentire, cioè, già lo uso ogni sera, quello è normale che uso ogni sera. Però quello, ma col QRM è un casino, l'altro ancora, quello dopo avevo 5 watt a casa, però è un casotto, farsi arrivare lontano, dai, già arriva stasera quella stazione fissa, ma quando c'è un po' di QRM la cosa è negativa, forse alzando un po' di più di radio può darsi di sì. Sì, guarda come va questa. radio c'ha quell'apparato lì. Siamo vicini. Ok, Gianmario, vai. Ok, ciao.